casa. Tu, l'azzurro in cuore versa. Io, senza di te cadrei, perché la mia è solo una folle corsa. Tu che lo puoi, tu, l'azzurro in cuore pensa. Tu che lo puoi, fallo per me, fallo perché la mia è solo una folle cosa. Se la mia voce non ha più eco, se nel mio cuore non c'è più fuoco, se nei miei occhi è sceso un velo, se nel mio mondo non c'è più cielo, allora tu,